sento io adesso. C'è qualcosa di... Abbiamo azionato un microfono qua. Ok, perfetto. No. Così deve. Sì. Tiè, senti questo. Senti qua. clear, like the dolphins, like the dolphins can swim. Just for one day. nothing will drive them away. We can be heroes if just for one day. We can be heroes if just for one day. Just for